Allora, Universia Tenebrarum è una serie comico-umoristica che abbiamo scritto insieme, Michele Mellara e Alessandro Rossi, e co-diretta di fiction, ambientata in un'università inventata che si chiama appunto Universitas Tenebrarum, popolata da ricercatori, docenti, studenti, tutti nulla facenti, in cui tutto non funziona, tutto è fuori squadro. È una serie dai toni grotteschi, satirici, è composta da 12 puntate di circa 13-15 minuti ciascuna. Nel cast la parte del leone la svolge Natalino Balasso, perché interpreta tre ruoli, però insieme a lui ci sono attori e attrici di indubbio valore, di lunga esperienza sia teatrale che cinematografica, tra questi Angela Amalfitano, Bob Messini, Stefano Pesce, Martina Sacchetti, Lorenzo Ansaloni. Poi abbiamo delle partecipazioni amichevoli di attori e attrici di altrettanto valore, e tra questi abbiamo Andrea Sant'Anastaso, Tita Ruggeri, Licia Navarrini. Per esempio, su questo discorso degli attori invece che lavorano da tempo, che hanno esperienza, la differenza con gli attori che hanno magari parti che provano per la prima volta, come è stato lavorare con magari studenti che escono dall'accademia o che hanno la prima esperienza? Ma in realtà, insomma, la stragrande sono tutti attori e attrici professionisti, perché anche gli attori e le attrici giovani provengono principalmente, non esclusivamente, ma principalmente dalla BSMT, che è la Bernstein School of Musical Theatre di Bologna, ed è una laurea triennale, e sono studenti alla fine del loro percorso di laurea, quindi che hanno avuto già una formazione molto, come dire, seria rispetto all'arte, al mestiere dell'attore o dell'attrice, e con loro avevamo provato, così come il cast di attori principali, prima di arrivare alle riprese, e abbiamo fatto crescere i personaggi e le situazioni, cercando di evidenziare ovviamente le criticità, i problemi recitativi, lavorando sui tempi comici, sul profilo dei personaggi, sulle situazioni, e quindi ci siamo trovati molto bene, nel senso che si è creato un gruppo in cui magari gli attori un po' più esperti potevano dare anche qualche consiglio ai più giovani, ma i più giovani comunque sono tutti giovani di talento e ben preparati. Parlando invece del luogo in cui è stato girato, sono i luoghi del Dance Lab, il rapporto con Bologna, perché si è scelto proprio questo di ambientarlo a Bologna, e che immagine dà? Ma il motivo è che noi siamo di qua, è molto comodo girarlo qua, il budget era molto piccolo per la produzione, quasi al limite dell'autarchia, e quindi abbiamo, per poterlo realizzare, attivato il più possibile collaborazioni entusiaste, che si hanno partecipato con entusiasmo, tra queste la scuola di musical, come diceva Michele, ma anche Natalino Basso, che è coproduttore della serie, e il Dipartimento delle Arti, il DAR, nello specifico attraverso il Dams Lab, che è una struttura a sé stante, dove abbiamo però girato tutta la serie, perché è tutta in interni, e quindi abbiamo attrezzato in una sorta di set cinematografico i vari luoghi che vengono normalmente usati come aule nelle varie spazi della nostra università, e questo ci ha consentito probabilmente di riuscire ad arrivare in fondo, perché abbiamo creato una piccola città del cinema per 4 settimane con un bel gruppo di studenti che avevano fatto un laboratorio assieme a noi, studenti provenienti da Incom e da Citem, che sono le due magistrali di comunicazioni e di cinema, e che quindi hanno lavorato proprio sul set all'interno, uniti insieme alla troupe, quindi non erano lì a portare dei caffè o il copione, ma partecipavano chi con le luci, chi con la macchina da presa, e adesso, parlando con loro che erano qui in gruppo, qualcuno sta lavorando a Milano alla Rai, qualcun altro sta lavorando in Cineteca, insomma stanno trovando dei loro spazi professionali. Pensiamo che questa esperienza di 4 settimane, che è stata faticosissima soprattutto per tutti quanti, lo è sempre, ma per loro in particolare, abbia costituito un buon passaggio formativo, insomma.